Perché mai siamo dovuti arrivare proprio al 6 agosto per interrompere le trattative e farlo nel bel mezzo della partenza di molte famiglie italiane in vacanza che utilizzano molto questa compagnia low cost? E le chiedo che tipo di controllo sta esercitando l'ENAC su tutta la vicenda. Dunque, la trattativa è partita ad aprile con l'annunzio che c'era un accordo, sottoposto però evidentemente alla valutazione dell'antitrust. Questa valutazione in effetti è intervenuta a fine luglio e ha determinato, secondo Alitalia, una diminuzione netta di circa 2 milioni di valore di Wingjet, e quindi questo ha rimesso in discussione la trattativa. È ovvio che noi abbiamo seguito tutto quanto dal principio sulla base del precedente della stessa nuova Alitalia. Se lei ricorda, la vecchia Alitalia fu tenuta in vita da noi soltanto fin quando erano concrete le prospettive di acquisizione da parte di un nuovo gruppo finanziario che aveva le condizioni previste dal regolamento europeo. Speciale Londra 2012. Solo per dare notizia di un'altra medaglia italiana, dopo l'oro di Campriani e il bronzo di Matteo Morandi negli anelli, arriva una medaglia d'argento dal trap, dal tiro di nuovo, con Massimo Fabrizi che conquista l'argento. Presidente Riggio, mi scusi, ma noi siamo abituati a si è spaventato. Abbiamo queste breaking news quando arrivano delle notizie dell'ultima ora molto importanti e le Olimpiadi le stiamo seguendo molto attentamente. No, stavo dicendo, se vi ricordate, appunto, quando si interruppero le trattative tra il nuovo gruppo che voleva comprare la vecchia Alitalia, io subito minacciai la revoca della licenza di volo, sì. E questo in qualche modo servì anche ad accelerare le trattative. Adesso la condizione è la stessa, cioè noi avremmo dovuto formalmente chiudere Wingjet perché non aveva più i requisiti, però c'era questo impegno da parte dell'Italia a farsi carico, diciamo, delle condizioni finanziarie, fermo restando il dato della sicurezza che invece è sotto controllo e con garanzia assoluta. E quindi adesso siamo nella stessa condizione, siamo in un periodo, come dice lei, estremamente trafficato, dove moltissime famiglie hanno comprato biglietti perché appunto c'era questa trattativa e oggi hanno diritto a viaggiare o almeno a essere avvisate e rimborsate. Quindi io dico, al massimo mercoledì dobbiamo avere una comunicazione ufficiale dell'esito della trattativa. Se positivo, bene. Se negativo, è evidente che Wingjet non ha la condizione per continuare, perché non ce l'aveva di tutto principio e via via la condizione si è aggravata.